Questa edizione, come le altre, è una piccola rassegna cinematografica che si svolge per 3 giorni al Cinema Lumière, comincia venerdì 20. Sono 8 film in rapida successione, venerdì abbiamo un film, poi il sabato e la domenica sono più proiezioni, e l'abbiamo creata alcuni anni fa perché volevamo un pochino aprire un riflettore, aprire un po' di informazione aggiuntiva sull'Africa, sulla cultura africana, su quello che accade oggigiorno in un continente che ancora ci è particolarmente sconosciuto qui in Italia e in Europa. Questo momento particolare caratterizzato da teplici migrazioni che spesso purtroppo vengono viste soltanto in maniera negativa. Pensa che portare una rassegna di film sull'Africa sia uno strumento positivo per far conoscere la loro cultura e quindi cambiare questa visione dei migranti? Io lo spero. In generale, aggiungere informazioni, cultura è sempre una buona cosa, indipendentemente dal tema che si sta trattando. Però quest'anno effettivamente, proprio perché ci siamo interrogati anche sulla situazione dell'attualità, la cronaca attuale, abbiamo dato un sottotitolo alla nostra segna, e il sottotitolo è L'Africa non ha confini. Se andate sul sito, sulla pagina Facebook, vedete il motivo per cui abbiamo dato questo tipo di aggiunta. Effettivamente molti dei film che rappresentiamo hanno come tema il viaggio non solo fisico ma anche interiore, e comunque non solo fuori dall'Africa ma anche dentro l'Africa. Cosa che molti non conoscono è che la stragrande maggioranza dei movimenti di popoli e di cultura avviene all'interno dell'Africa, non al di fuori. Quante proiezioni sono previste? C'è un filo conduttore tra le varie proiezioni? Allora, come dicevo, sono 8 proiezioni. Il primo film è venerdì alle ore 20, alle ore 21. Verrà replicato anche domenica, quindi in tutto in realtà sono 9. E gli altri 2 giorni sono sabato e domenica. Abbiamo 8 film in proiezione. Il filo conduttore è in generale l'Africa, la rappresentazione il più possibile sincera di alcuni temi che riguardano la cultura africana e le storie e l'attualità africana. In particolare, però, abbiamo focalizzato molto sul viaggio.